Veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh? Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Auguri Crux, grande, meno male che ci sei tu. Ciao. Ragazzi, basta con questi messaggi. Questi messaggi di esaltazione, eh? Io sono depresso e voi mi fate gli auguri, che siete matti? Ma quindi oggi è il compleanno di Cruciani? Ma io ero convinto che fosse nato il 25 dicembre su concepimento e opera dello Spirito Santo. Mi sarò confuso. A Crucia, oggi sono 50 anni che non fai un cazzo. Ecco, questo è giusto, eh? Questo è giusto. Non scordatevi il numero del cuore, 393-71-71-701. Allora, è un'ora il giorno il 15 settembre del 2016. Io sono nato il 15 settembre del 66, 50 anni fa, e tutto il giorno, anzi, non, le ultime due ore che cerco di contattare Parenzo, che è in Israele a fare i cazzi suoi. Proviamoci ancora. Niente. Porca puttana, porca, guarda. Allora ragazzi, oggi ci sono stati i funerali di Tiziana Cantone, la ragazza del video hard, eccetera eccetera, tutto quello che sapete. La cosa incredibile, sentiamo la madre, eh? La madre che è stata pizzicata lì, la madre che non ha mai parlato, nel senso che non c'è mai un'intervista, una parola, eccetera. Oggi al funerale qualcuno si è avvicinato col microfono e ha detto che sua figlia era una ragazza di sani principi. Con dei sani valori. Ne aveva passate tante questa ragazza qua. Perché tutti si sono accaduti contro di lei? Perché? Allora, io non riesco veramente a capire chi ancora, come ieri Olivero Toscani da noi, come si possa solo lontanamente pensare che questa ragazza qui sia colpevole di qualcosa. Qualcuno mi ha detto oggi, è stata imprudente, perché ha mandato dei video in giro. Ma che cazzo c'entra? Allora, se era consapevole che questi video sarebbero finiti in rete a disposizione di tutti, allora avete d'accordo voi, avete ragione voi. Se invece, come sembra, addirittura la madre dice in un interrogatorio che è stato il ragazzo a convincerla a fare quei video perché gli faceva piacere vedere la fidanzata scopata da altre persone, o comunque che faceva sesso con altre persone, ed è stato poi probabilmente il fidanzato a diffondere questi video sul web. Ma io non capisco cosa c'entra lei. Cioè, se non ha partecipato anche lei alla diffusione online, ma semplicemente tra amici di questa roba qui, lei non ha alcuna responsabilità. Mi dicono è stata imprudente perché si è fatta riprendere mentre faceva un pompino a un ragazzo. Ma che vuol dire? Uno non può fare quello che vuole nella vita. Cioè, uno può fare i video che vuole, basta che non finiscano a disposizione di tutti. Comunque, addirittura Toscani ieri sera dice che è tutta colpa sua. Devi sapere che può succedere, se ti deprimi sei un po' presto, cosa fare? Sì, non puoi deprimerti, c'è libertà di espressione. Bene, tu ti esprimi, fai vedere che fai certe cose, no? Ma vuoi esprimere così, ed esprimiti. Bene, però sai che fai una cosa pubblica, soprattutto se la dai, anche se la dai a un amico, fai una cosa pubblica. Chiaro, quando uno muore poi ha sempre ragione. Vabbè, però tu dici un po' fessa, hai detto, un po' fessa. È logico, un po' fessa chiotta, scusa. Allora, gli dava veramente una grande importanza al suo vita. Beh, non insomma, se voleva trasferirsi addirittura, voleva cambiare identità, evidentemente è stata... E la riconoscevano per strada. E allora, fa una roba che è così importante da uccidersi poi e lo fa in modo così superficiale. In fondo l'hai fatto. Ah, tu dici in fondo quello il pompino l'ha fatto. Dunque, e l'ha mandato in giro. E l'ha mandato in giro. Agli amici. Un amico. Non ha importanza, l'ha mandato in giro. Vuol dire che andava bene che qualcun altro vedesse. Bah. Allora, un altro è Adinolfi. Adinolfi cosa dice? Cioè, dice addirittura se la piglia con Radio DJ. Perché mandava in onda i jingle in cui si pigliava per il culo la ragazza. Ma scusate, questa qua non ha mai parlato, non ha mai detto nulla. Uno era legittimato, queste cose sono andate in giro dappertutto. Uno poteva anche credere che lei fosse consapevole di quello che stava succedendo. Non è che si è alzata un attimo a dire ma non sto dando responsabilità alla ragazza, Non si è alzata per dire ragazzi mi hanno preso in giro, mi hanno fottuto, hanno messo i miei video in sul web. Non ha mai detto nulla, mai detto nulla. Radio DJ, la principale radio italiana, c'era fatta un jingle con le frasi di Tiziana Cantone che è andata in onda ossessivamente per giorni, ascoltato da milioni di persone che la irridevano. Ieri il direttore di Radio DJ ha dovuto fare un post francamente poco comprensibile, si chiama Linus, il direttore di Radio DJ, chiedendo scusa in maniera molto generica e poco comprensibile a questa ragazza che hanno messo in croce per mesi. Allora ragazzi, la famosa frase che è stai facendo un video della Tiziana Cantone era una frase che è stata utilizzata tantissime volte in tantissime radio, in moltissime parodie, eccetera, eccetera. Ma per un solo motivo. Per un motivo molto semplice, che nessuno sapeva cosa c'era dietro. Nessuno sapeva che lei magari aveva fatto subito denuncia. Non c'è un'intervista di questa Tiziana Cantone che è subito sparita. Non c'è una cosa di un avvocato che ha detto fermi tutti, queste cose non si possono utilizzare, state facendo sciacallaggio su una ragazza. C'è stato un silenzio totale su questa vicenda, totale. Dunque, molte persone, io non voglio giustificare nulla perché non me ne frega niente, anche noi probabilmente l'abbiamo utilizzato, adesso non mi ricordo, ma non è che siamo sciacari, non è che abbiamo contribuito prendendo quella frase alla morte di una ragazza. Non si sapeva niente, non si sapeva nulla. Ancora Adinolfi, vai. Ci sono responsabilità di persone precise, non è il web. C'è una pagina web che ha fatto questo lavoro insieme ad alcune altre pagine fogna e quei mezzi di comunicazione, diciamo, tradizionale che hanno toccato e toccano milioni di giovani vellicando la cretinaggine di questi giovani, hanno utilizzato questa povera donna, hanno determinato il suicidio di Tiziana Cantone. Lo nominiamo intanto, il principale social network responsabile di questo linciaggio si chiama Facebook, per la precisione una serie di pagine fogna di Facebook, pagine con 550.000 followers che hanno insultato per un anno intero Tiziana Cantone. Mi riferisco alla pagina Welcome to Favelas che solo ieri sono riuscito a far cancellare dopo che aveva postato un post di insulti a Tiziana Cantone morta con 9.000 commenti terrificanti. Ma io sono convinto che i colpevoli non sono affatto i... non è affatto il web, non è affatto il web, ma sono solamente quelli che hanno preso questo video e invece di farsi le seghe, invece di farsi le seghe a casa, l'hanno messo a disposizione di tutti. Se a uno gli arriva un video del genere, un video privato del genere da un altro amico, non è che lo mette a disposizione di tutti. Se sei eccitato, se sei uno che gli piacciono queste cose, fai quello che devi fare, ma non è che lo mette a disposizione di tutti. Le quattro persone che pare siano indagate sono loro gli unici colpevoli. Gli unici colpevoli. Dice la ragazza è stata imprudente, ma perché? Perché ha fatto un popino, perché l'ha diffuso, perché insieme al ragazzo probabilmente gli piaceva fare queste cose. Ma di che stiamo parlando? Tutto il giorno viaggiare con Cruciani alla radio da ascoltare, anche se col traffico mi sento male. Tutto il giorno viaggiare. La Zanzara. Allora ragazzi, Gasparri dice che, sentite vi prego, la moglie Al Pacino, mia moglie dice che somiglio ad Al Pacino, Gasparri. Da chi vorrebbero essere interpretati i bighi di Forza Italia? Neri Marco Re, ovviamente, se ci fosse. La voce, poi anche il trucco, potrebbero risparmiare. Ogni tanto mi prendono in giro per una cosa che io non ho detto, l'ha detta mia moglie Al Pacino. La Meloni. Sentite. Non so se Paolo Sorrentino mi dedicherà una parte nel suo film. Gasparri. Purtroppo Marty Feldman è morto, quindi non lo può fare. Al Pacino o Marty Feldman? Fabio, provincia di Bergamo, vai, iniziamo, vai. Tanti auguri. Ma non rompere il cazzo, dai. Ciao Giuseppe. Dai, imbecille, dai, che vuoi? Vabbè, non ti arrabbiare. Ma non rompere questi auguri, mica stiamo a radio Arcobaleno qua, dai, su. Dai. Due cose per Tiziana, veloce. Per Tiziana chi? Tiziana chi? Oddio, la ragazza suicida. Allora? Parlo per esperienza personale, a me è successo di essere stato vittima di episodi di stalker, denunce tramite il mio avvocato alla procura di Bergamo, davanti alla polizia postale. Qui non c'entra un cazzo lo stalking però, Aspetta, arrivo. Dimmi. Il poliziotto mi dice: guarda, in confidenza ti dico sta cosa. Tutti i social network, Facebook, WhatsApp, eccetera, sono una vetrina al mondo. Vabbè, ma questo lo sappiamo, non c'è bisogno del maresciallo che ce lo dice. La povera ragazza, se proprio non voleva avere timori, non doveva fare video. Non faceva, ragazzi, ma non potete dire questa cazzata, dai, su. Ma è una puttanata, dai, è una puttanata. Imprudente vuol dire imprudente. Ma che vuol dire imprudente? Cosa vuol dire mica una persona pubblica? Scusa, cioè, ho un figlio di 6 anni. E allora? E mi guardo bene a fargli le fotografie e a mandarle anche solo ai miei amici, perché anche solo ai miei amici io mi guardo bene. Ma perché, scusa, perché che paura hai? Non ho capito. Che paura hai? Ma perché non voglio che nessuno in rete veda le foto di mio figlio. Cioè, hai paura che vengano sfruttate dai pedofili le foto di tuo figlio? Ma certo, a parte che chi se ne frega, cioè se uno ha la foto dei figli che viene diffusa per motivi vari su internet è un pedofilo, ma chi se ne frega, cioè non, qual è il problema? Ma certo, se non lo so, va bene, appunto, non lo sai, va bene, ma ho capito, ma era per dire che non puoi fare l'ingenuo dicendo che cazzo non lo sapevo, no, che scusate, però scusate, mio amico, allora, non viene visto, pare, viene visto. Secondo la madre, fermo lì, secondo la, telefono, ma che vuol dire, ma secondo la madre questa ragazza, secondo la madre questa ragazza ha fatto un video, perché è plagiata dal fidanzato. Al fidanzato piaceva vedere lei che si faceva fare da qualcuno, che si faceva scopare da qualcuno, che faceva pompini a qualcuno, eccetera, eccetera. Ma questo, figurati, ma non che c'è, no, mica c'è niente di male. Mica c'è nulla di male. Cioè, è una cosa, d'accordo, diciamo, normale, però questa cosa qui. Però lo sai. Ma sai che cosa? Sai che cosa? Lo sai che in internet... Ma non l'ha messo su internet, l'ha dato in giro a quattro stronzi che poi l'hanno diffuso, dai, ma su. Certo, ma tu sai sai quante cose la gente guarderà del tuo telefono e tu nemmeno lo sai. Ma non mi interessa, se non vengono diffuse non mi interessa. Sanno tutto di te, sanno ma tutto, ho capito, ma se non viene diffuso su internet urbi e torbi, che mi interessa se qualcuno guarda? Qualcuno guarda e vabbè, allora? Cioè non devo... Giuseppe Cruciani, ma magari qualcuno si impicca, capito? A tu Giuseppe Marco Cruciani, ma no, si impicca se viene sputtanato, diciamo, da tutto il mondo, no? Marco da Milano, vai, Marco. Pronto? Dimmi Marco, dimmi. Sì, ciao Cruciani. Ascolti, io questa storia qui di questa ragazza non è che l'ho seguita bene. Cioè, e allora perché ne vuoi parlare? Non no, ho capito. L'ho seguita ieri ascoltando voi. Allora? No, volevo dire... Cioè sei uno dei pochi in Italia che non è andato a vedere il video di questa ragazza? No, non l'ho visto. No, sei uno dei pochi in Italia, credo. L'ho tolto Facebook perché è una cagata mega grande. Ma non è solo su Facebook, era ovunque. Vabbè, allora Marco, che vuoi? Vabbè, no, volevo dire, questa, io non so, gliel'hanno fatto di nascosto e se l'hanno postato il video. Vabbè, e ma ragazzi, ma volevo... qui non è, cioè, non è che tu ci devi chiedere no, le notizie, cioè, no, o le cose le sai o non le sai, cioè, Marco. No, no, volevo sapere, no, volevo sapere questo perché dipende se non l'ho fatto. Allora, non è, la cosa non è del tutto chiara. Comunque, da quello che si sa, lei non voleva o comunque non era consapevole del fatto che questi video potessero girare. Li ha mandati lei o il fidanzato solamente ad alcuni amici. Questi amici ah, poi. Ecco, questo. Ecco, vabbè, questo. E allora dire. Poi per allora tu, per esempio, tu so che avevi una scommessa che ti volevi far incappettare, ma... E che c'entra? Facciamo finta che ti fa incappettare e poi ti fanno anche il video, no? Ma dipende e se scelgo domani, se scelgo domande dei tuoi amici. No, allora domande dei tuoi amici. E poi domani se viene fuori che va su internet non ti devi deprimere. Ma scusa, ma dipende se voglio che la cosa venga diffusa o non venga diffusa. Cioè, se io faccio capito, un video in cui vado con un transessuale. Scusami, ma Marco, se io vado faccio un video in cui vado con un transessuale perché mi piace andare con i transessuali. Cioè, faccio un video, dopodiché poi lo do, diciamo, lo do a un paio di amici. Se questi qua me lo mettono. Se questi qua me lo mettono, se questi qua me lo mettono su internet. Ma devo saperlo cosa? A un amico solamente. Vabbè, Marco, ciao, non sai un cazzo. Ciao, Stefano da Milano, dai, Stefano. Sì, ciao Cruciani, dimmi. Auguri di non compleanno. Dai ragazzi, su, non mi rompete i coglioni con sta storia, sennò veramente diventiamo patetici, sì, no, dai, patente, comunque, Stefano, dai. Comunque. No, l'unica cosa che volevo dire sulla ragazza, su Tiziana Cantone, io non riesco a capire tu come tu faccia a dire che non abbia commesso un'imprudenza. Ma no, ma l'imprudenza, cioè, dove sta di... l'imprudenza? Spiegami, dov'è l'imprudenza? Allora, dov'è l'imprudenza? Cruciani, ci sono migliaia di persone che fanno le stesse cose, seguendo il racconto della madre, ci sono migliaia di persone in Italia che fanno esattamente la stessa cosa. Cioè, ci sono fidanzati che dicono perché non ti fai scopare da qualcuno e queste qua si fanno riprendere, magari senza il volto, mentre fanno delle cose ad altre persone, ad altri uomini. È pieno in Italia, migliaia di persone fanno la stessa cosa. Ma appunto, e Cruciani, questi video non vanno a finire online a disposizione Cruciani, di tutti, quelle, punto e basta. Quelle intelligenti lo fanno senza farsi riprendere il video. Quelle più intelligenti. La faccia, senza farsi se riprendere la faccia. La faccia, scusa. Vabbè, ma ho capito, ma a maggior ragione, evidentemente non voleva che fosse diffuso. Sì, non lo so, ma lei non ha nessuna responsabilità e non ha fatto nemmeno un'imprudenza. È stata Cruciani, quel video lì è diventato famoso per la frase, non tanto per il fatto che lei facesse un pompino. È divenuto famoso per la frase e basta. Sì, anche per perché la frase, certo. Se fosse stato un normale pompino, te lo dice un ragazzo di 22 anni. Quel video lì non l'avrebbe guardato nessuno. Può è essere. Stato famoso solo per la frase quale lei cerca di imitare una pornostar, punto. Al di là di chi sia la tant'è che qualcuno che adesso fa il moralista all'epoca quando uscì fuori il video dice questa è una cosa esibizionista di qualcuno che magari avrà un futuro da pornostar. Vabbè, allora insomma secondo te lei ha qualche colpa? Sì, penso che sia stata imprudente, non colpa ma che sia cioè se si è ammazzato è un po' colpa sua. No, no, no. Questa è la conclusione. Alla fine, se si è ammazzato, è un po' colpa sua. Sì, però, Cruciani, c'erano anche altre vie piuttosto che il suicidio. Se proprio voleva cambiare vita, poteva andare all'estero, che sicuramente non l'avrebbe riconosciuta nessuno. Va bene, Alessandro, Milano, non è che tutti possono andare all'estero così. Alessandro, sempre Milano, vai. Alessandro? Buonasera, Cruciani. Dimmi, dimmi. Niente, veloce, grande conduttore, grandissimo odies, ma c'hai un grosso neo, hai un odio viscerale per i napoletani. No, nessun odio nei confronti dei napoletani, nessun odio. No, ma lo sai cos'è? Che è quasi patologico. Che ma sei, non ho nessuna patologia, quasi amico. Quasi demagogico, ci stai mettendo in cattiva luce. Poi ti dirò tu cosa. Che accento hai tu, scusa? Che accento hai? Non mi sembri napoletano. Non mi sembri napoletano. Non mi sembri napoletano. Non hai la cosa, non hai l'accento napoletano. Non hai l'accento napoletano. Non mi sembra che hai l'accento napoletano, eh. Ti stavo coprendo con questa cosa per la puttanata che stavi dicendo. Ciao Alessandro, ciao. Ma dico, non lo so, pubblicità, GS4, traffico, il meteo, il lotto, vogliamo fare 2 ore e mezza di minchiate e poi ogni tanto così, 2 puntatine di zanzara nel mezzo. Verona-Torino, trasferta d'affari, io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare, il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali, basta un autoradio digitale, DAB Plus, chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio, il suono perfetto, DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. La Zanzara. Cioè, uno sente Radio 24, si vuole elevare socialmente, no? Si vuole sentire un uomo business, poi interviene Sfrucciani e Partenzio e gli cascano i coglioni e ritorna un uomo normale. No, no, non va mica bene. Che cos'è che ha detto il mago Zurlì, Tortorella? Mi segnalano che ha detto che è stato nell'aldilà. Cino, ma che dici? Mago Zurlì. Sono stato in un altro mondo. Nell'aldilà? Assolutamente sì, sono convintissimo. Mi sono trovato lì con dei dolori in tutto il corpo. Avevano preparato già tutto. Mia moglie ha sentito fuori il professore e lo abbiamo perso. E io in quel momento lì mi sono trovato in un ambiente meraviglioso, senza nessun dolore addosso, e poi ho sentito arrivare queste voci. Bah. Luca Telese, ciao Luca! Peppino! Come stai? Come stai? Si combatte. Si combatte. Senti, io voglio capire da te cosa ne pensi, da uomo, diciamo, di sinistra, di formazione di sinistra, della vicenda di Canio. Della vicenda di Canio. Poi ti faccio parlare pure della storia di Tiziana, naturalmente. Però ieri, io ho difeso fino alla morte di Canio, dicendo che i fascisti in questa storia sono altri, sono quelli che gli impediscono in questo momento di andare in video semplicemente perché ha un cazzo di tatuaggio lì che ha fatto 20 anni fa, eccetera eccetera, o no? Sai quanto soffro a darti ragione, ma dico anche di più, siccome ho visto che si accendono le polemiche, siccome fai un tweet e qualcuno ti insulta e ti dice sì, Hai tradito, sei venduto, stai legittimando le SS, io dico che chi ha un'opinione anche opposta a quella di Canio deve tremare se inizia a perseguitare un reato d'opinione, anche perché Di Canio non ha esibito questo tatuaggio in un programma, non ha gridato bel duccio sì, non ha fatto un'intervista a un giornale dicendo corpo, sì, ce l'aveva sul suo corpo, ha raccontato di averlo, ma ieri Parenzo ha detto che vogliamo sul sì. No, ieri Parenzo ha detto questo è un fascista, non doveva andare in giro a maniche corte, mettiti una camicia, forse c'è stato... Ma è ridicolo. Veramente non dovrebbe dire, perché bisogna avere il coraggio di dire che devi difendere le idee e la libertà delle idee anche quando non sono le tue, soprattutto perché non sono le tue, invece il politicamente corretto, oddio come si fa, ma allora mi arrabbio. Ma Di Canio, ma che non lo sapevano che era fascista? No, cioè, ma guardate, questa è qualcuno nel mondo che può immaginare che Di Canio avesse tatuati i buffi? No, no, ma infatti non solo si sapeva. Non solo, lo sapevano quando l'hanno ingaggiato, no. Non solo, lo hanno preso perché ha quella faccia, quella teatralità, quella capacità di buttare il video, se l'hai preso devi difendere. No, ma infatti la cosa incredibile è che di fronte alla cosiddetta ribellione del web, alla cosiddetta ribellione dei comunicati, di quelli indignati, di questi coglioni e stronzi che fanno i comunicati dicendo beh siamo offesi perché quello c'ha la cosa Dux, un'azienda seria, adesso non voglio fare lo specialista nella comunicazione, però forse me ne intendo, no? Cioè, in piccolo me ne intendo. Un'azienda seria, secondo me, un'azienda che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe dire... le idee di Paolo Di Canio, le idee di Paolo Di Canio sono le sue idee che non ha mai, che non, di cui non ha mai parlato in questa sede. Paolo Di Canio è un grande professionista che noi abbiamo ingaggiato come simbolo del calcio inglese, esatto, in questa televisione e resta nel nostro, e resta nel nostro team, punto e basta. Le sue idee sono idee che lui, che non condividiamo, ma insomma senza nemmeno scrivere questo, sono idee che nulla hanno a che fare col suo lavoro, anche perché poi non è che Di Canio sta a parlare ogni giorno dei fascisti, cioè di questa cosa ne ha parlato nel passato, ha dei tatuaggi che tutti conoscevano, perché se questi qua non conoscevano il passato di Di Canio sono degli incompetenti, cioè sono dei pazzi naturalmente, no? Per cui veramente bisognerebbe fare un comitato pro Paolo Di Canio, veramente è una cosa di una gravità inaudita secondo me, cioè di una gravità inaudita, uno sospeso per un tatuaggio. Ragazzi, poi sospeso, mi dicono in realtà che non è stato sospeso, mi dicono, io vorrei qualche parola, cioè le tante persone che conosco a Sky, le tantissime persone che conosco a Sky, che hanno sempre accolto Di Canio, il fascista Di Canio, in maniera normale, persone che la pensano in maniera diversa da Di Canio, dovrebbero parlare, noi siamo persone libere, che siamo in grado di parlare e dire le cose. Allora, le persone che, le tantissime persone che conosco a Sky, i tantissimi giornalisti liberi che conosco a Sky, dovrebbero dire: noi siamo contrari a quello che ha deciso la nostra azienda. Siamo contrari, dovrebbero alzare la voce, e secondo me ce ne sono tanti, pubblicamente, dicendo che l'azienda sbaglia nel mandare via un professionista che loro hanno accolto fottendosene del fatto che si è dichiarato a lungo fascista. Uno non può... avrebbero diritto a essere d'accordo con questo licenziamento, ma solo se hanno detto prima: io non lo voglio perché nell'87 ha fatto il saluto romano. E poi scusami, 92, poi scusami, c'è un'altra cosa. Quel video... prima non era fascista. No, ma scusa, poi c'è un'altra cosa. Quel video là che è andato in onda con lui con le maniche corte, col tatuaggio Dux, è un video che qualcuno ha controllato. Cioè non è un video che è stato fatto in diretta, era un video che è stato mandato su Sky dopo qualche controllo, persino qualcuno mi dice dopo 15-20 giorni, cioè in questi 15 giorni non c'è uno stronzo che si è accorto di questa cosa che l'ha segnalato, cacciate quelli, un dirigente che l'ha preso in visione, siccome era un video promozionale, ci sarà stato un dirigente che l'ha preso in visione e che fa, non ha visto il tatuaggio Dux? Allora mandate a fare in culo quello, no? Il povero Di Canio che ha semplicemente fatto un video a maniche corte, ma ragazzi, ma di cosa parliamo? Cioè è veramente incredibile. Sergio da Napoli, vai Sergio. Ciao Giuseppe. Dimmi, dimmi. Volevo portare la mia esperienza. Intanto io sono una persona che pratica questo tipo di video con la mia compagna. Quale video? Scusa, siamo tornati al video di Tiziana. Siamo tornati al video di Tiziana, sì. L'autoerotismo, vedere la moglie. In che senso? In che senso? La moglie che si fa scopare, che gode, è la cosa più bella che possa esistere per quanto mi riguarda. Cioè tu fai questo, con tua moglie, certo. Adesso Parenzo non c'è, ti avrebbe detto certo, se è normale certo, questa cosa, certo, eccetera eccetera. Non so se per Telese è normale questa cosa qui, cioè ognuno fa quello che vuole nella vita privata, no? Assolutamente sì, Ma sono liberi. Centinaia e migliaia di coppie che lo fanno. Ma no, ma adesso centinaia di migliaia di coppie in tutto il mondo, magari. Ci sono siti internet che promuovono benissimo video amatoriali. Cioè, a te piace, a te piace, perché questa è la tesi, per esempio, della madre. La madre di Tiziana Cantone sostiene che il ragazzo l'abbia plagiata. Adesso bisogna vedere naturalmente se è vero, plagiata, cosa vuol dire. Giuseppe, c'è complicità nella coppia quando si fanno aspetta, queste cose. Aspetta. La ragazza è stata tradita, questa è la verità. Cioè? I pezzi di merda sono i ragazzi che hanno avuto il video e che l'hanno distribuito. Non c'è dubbio, ma gli unici responsabili sono loro. Quando una donna si presta a fare queste cose è perché ama il suo compagno, è complice del suo compagno. E la ragazza è stata tradita, nessuno lo dice. Ecco perché la ragazza è andata in sofferenza, non ce l'ha fatta. Perché per fare questi video bisogna amare la persona con cui ci si fa. Però scusami Sergio, tu naturalmente fai dei video della tua donna che viene scopata da altri? Ma c'è fiducia, certo, ma c'è fiducia nella coppia. Ho capito, questi video che fine... Non immaginerebbe mai che io vado a pubblicare il video e lo distribuisco, perché sa che c'è fiducia. Dunque, tu mi stai dicendo, Telese, questa è una cosa molto importante. Allora, Sergio ci sta dicendo, a lui piace vedere sua moglie che si fa scopare da altri, ok? Più o meno la stessa situazione che ha immaginato la madre di Tiziana Cantone, quando dice ai magistrati, lui l'ha plagiata, in questo caso non c'è plagio nel caso di Sergio, ma era il fidanzato che l'ha obbligata, insomma, che la portava a fare dei video contro le altre persone. Dopodiché ha distribuito questi video, ha dato questi video in giro e questi qua poi sono stati messi sulla rete. C'è, Sergio ci sta dicendo una cosa, ci sta dicendo che è assolutamente normale, dunque questa non è una puttana come è stata descritta. Molti dicono questa è una puttana, questa non si devono fare queste cose, eccetera, eccetera. Sergio ci sta dicendo è assolutamente normale, c'è un sacco, c'è un pezzo d'Italia che fa queste cose, che riprende i video, dopodiché questi video però, Sergio, alla fine restano nella sfera privata, cioè restano tra te e tua moglie, immagino, no? È ovvio. Oppure li mettete in giro voi? Assolutamente, assolutamente. Ma li dai a qualcuno, a qualche amico, li fai vedere a qualcuno? Devo dare? Se li devo dare, oscuro la faccia di mia moglie, no, mica sono così stupido. Vabbè. Che ci vuole oscurare una faccia? La verità è che l'hanno voluta massacrare. Perché chi mette un video in rete lo sa bene che fine fa. Il problema non è della ragazza, è di chi lo mette in rete. No, ma certo, l'unico problema è di chi lo mette in rete, su questo non c'è dubbio. Cioè, resta l'unica perplessità che io ho è all'inizio la ragazza, perché poi non ha mai parlato la povera da ragazza. Da quello che ho sentito nell'ultimo TG, la ragazza ha dato il video ai quattro amici, sì, sì, per ripicca nei confronti del fidanzato. Sì. Questo sta emergendo dall'indagine. E i quattro amici che hanno fatto? Sì, sì. Hanno tradito la fiducia di questa ragazza e l'hanno preso sto video e l'hanno messo in rete. Pezzi di merda. Assolutamente. Stefano, Roma, vai. Buonasera. Stefano. Dimmi Stefano. Io ho avuto un'esperienza simile a quella della ragazza, perché, vabbè, non proprio che mi scambiavo la donna, però è venuta questa ragazza a trovarmi, a fare un viaggio in Italia, e a un certo punto durante il rapporto mi ha chiesto il telefono e ha iniziato a filmare tutta la scena. E allora? Anzi, a un certo punto mi ha anche esce fuori, Telese, esce fuori un'Italia voyeurista, cioè un'Italia... Ecco, no, stavo pensando, mentre vi ascoltavo, scusa un secondo, che è la rivincita della radio più moderna del web. Il web ha tirato fuori un pezzo d'Italia bacchettone ignobile, quella che avete appena descritto. La radio sta tirando fuori la realtà, il mondo vero. Sì, quindi sì, esatto. Non sempre è più moderna la radio adesso. E mi viene in mente sul giudizio tutti quelli che dicono ah, ma lei l'ha messo sui social, è colpevole, che questa esaltazione del web e dei social come una modernità sembra quella... si presta a quel giudizio meraviglioso che diede Rossini, che gli fecero vedere le opere di un giovane compositore. Rossini, alla Zanzara Rossini. Sì, sì, sì. E disse, gli dissero, ma sai che c'è del bello e del nuovo? E lui disse, sì, ma ciò che è nuovo non è bello e ciò che è bello non è nuovo. Sì, ma il web non c'entra niente in questa cosa. Il problema sono quelli che mettono le cose sul web. Sul web c'è di tutto. Sul web ci sono... No, perché si dice, come se il web fosse una legge, se lo hai dato al web sono cavoli tuoi. Ma non l'ha dato lei! Ma non l'ha dato lei! Ma dicono se l'hai messo su WhatsApp... Se l'hai ma è una cazzata! Questa è la teoria di Toscani, la teoria di altri, una follia di qualcuno che lavora con me, cioè che dicono, siccome l'hai dato su WhatsApp, allora significa che come se l'avessi dato in rete. Ma dico, ma siete matti, ragazzi? Stefano, che ci stai dicendo? Allora hai fatto dei video con questa ragazza, poi? Sì, no, io poi lei me l'ha chiesto per tenerseli, perché doveva tenerseli, me li sono tenuti e ovviamente ho fatto anche vedere a alcuni miei amici, però preme manem, cioè sul mio telefono, sulla mia mano, mica glieli mandavo, cioè non glieli inviavo. E poi ho scoperto che era una pratica diffusa tra alcuni miei amici che hanno condiviso altri... Vabbè, ma sempre tra di loro, non è che l'hanno mandati ai siti... No, infatti, tenendoseli in mano... Vabbè, allora che ci stai raccontando? Scusa, che ce frega questa cosa qua? Ci stai dicendo che tu hai fatto dei video con la ragazza, ma nessuno l'ha diffuso, vabbè, allora... No, che a farli girare così, a farli vedere a mano con mano, poi vabbè, io non età e non ho... Ma ragazzi, ma gli unici pezzi di merda sono quelli che hanno diffuso questa cosa al di là della cerchia degli amici, punto e basta. La ragazza è totalmente innocente. Ormai non ho più relazioni di sorta, solo solitudine e zanzara. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Avevo un'idea meravigliosa su come far svolgere le Olimpiadi a Napoli. Cazzo, me l'hanno scippata. Oh, allora, dove andiamo? Andiamo a Genova. Mario, vai, Mario. Cruciani, buonasera. Vai, allora, vai, dimmi. Io volevo trattare un altro argomento, ma lo trattiamo dopo. Ma è vero che a te piace vedere la tua donna che si fa scopare da altri? Ma diciamo che lo sto leggendo adesso su internet. Sì, è un'intervista che feci a Dello Spia. No, volevo sapere se ti piace o no, non ho chiesto. Sì, amico mio, è un'intervista che ho fatto per spiegare, fammi parlare. Sì, ma ho fatto la domanda, puoi rispondere? Innanzitutto, quale domande le faccio io? Non è che le fai tu, primo. Primo. Ma chi l'ha detto? Primo, le domande le faccio io, non le fai tu. Le regole dove sono scritte? Ma le regole le faccio io perché sono il padrone assoluto di questo spazio. Ma le regole tu? Sì. Senti, invece le fai tu le regole, chi le fa? Le fai tu le regole, non ho capito. No, penso e allora che si debba parlare un po' per uno, se mi consentite ma di parlare. Ma io parlo, tu parli quanto dico io, ce lo decido io quanto parli, chiaro? Che cazzoncino che sei. Non è cazzo, ce lo decido io quanto parli, non hai capito ancora? Ti ripeto. Se non vuoi, se vuoi non chiami, non ci rompi i coglioni. Sei un cazzoncino, senti. Vabbè, tu puoi dire quello che io ti permetto. All'inizio della conversazione. Ma stai zitto un attimo, io ti permetto anche di insultarmi, io ti permetto, guarda, io ho il potere di spegnere in questo momento, di calare il tuo volume, capito? L'interesse da parte dei no, degli ascoltatori, ma sì, sai, trasmissione molla, l'interesse degli ascoltatori per Mario da Genova è proprio cresce di secondo in secondo. Che sono stato ringraziato da quell'imbecille, sì, del tuo socio, perché ho tirato su gli ascolti, perché è molto molla la trasmissione stasera. Sì, ti sto dicendo. Sì, sì. Ali, ti ho fatto una domanda. Vuoi rispondere sì o no? Non vuoi rispondere? Prendo atto che non rispondi. L'argomento del quale volevo parlare è il fatto che tu hai asserito che tua figlia ascolta la tua trasmissione. Non l'ascolta perché è troppo piccola, ha 11 anni. Non l'ascolta più. Ma guarda, non l'ascolta più. Cretino, non l'ascolta. Hai cambiato idea. Non l'ascolta. Ogni tanto l'ascolta. Non lo so, ma questo è pazzo. Questo è malato. Questo è malato di me. Gli sto dimostrando che sei un incoerente. Senti, su questo piano qui io ti mangio in testa, capito? Solo che non mi va di esercitarmi. Non mi va di esercitarmi con te, capito? Non vuoi ho voglia di esercitarmi. Quello che hai detto su tua figlia che ascolta la ma non lo so, ogni tanto l'ascolterà, non lo so, non mi interessa, non è un problema. Tu che l'ascolta sempre. Non ho mai detto che l'ascolta sempre. Non ho mai detto. Devi essere coerente. Quando io ti contestavo che usi dei termini volgari, tu hai detto: mia figlia ascolta, ma hai anche detto, vuoi dire qualcosa a tua figlia? E io ho detto, bambina, mi dispiace, eccetera, eccetera. Sì, io ti dico, indipendentemente, prendo atto anche questo fatto che tu hai cambiato idea, che adesso tua figlia non ascolta. Ma credo, perché hai chiamato stasera? Questo mi viene in mente, questa cosa qua, perché? Ma quali contestazioni di cosa? Il fatto che tu non devi essere volgare. Non devo essere te volgare. Lo dico io, non devi essere non devo volgare. Essere volgare. Bene. Devi utilizzare dei termini adeguati per chi fa radio. Grazie Paparino che mi dai questi consigli. No, io non grazie sono Paparino. No, grazie Paparino. No. Chi sei? Il garante dei bambini? Il garante dell'infanzia? Chi sei? Il garante dell'infanzia? Chi sei? Rispetta il tuo ruolo. Rispetta il tuo ruolo. Chi sei? L'ordine dei giornalisti? Chi sei? Ti sto contestando che tu hai parlato di pompini, di seghe. Assolutamente. È tutta l'Italia che parla da tre giorni. È tutta l'Italia che da tre giorni parla dei pompini fatti nei video. È tutta l'Italia ne parla. Adesso non ne posso parlare. Non hai seguito perché sei ignorante, perché sei una bestia. Mi occupo di altre cose. Di che ti occupi? Di ingegneria? Di ingegneria aerospaziale? Di cosa ti occupi? Di cosa ti occupi? No, veramente il tuo tetto è l'ingegnere aerospaziale. Ma non lo so, di cosa ti occupi? Come sei meschino? Per te il massimo. Telesia, parlaci tu, ti prego, Telesia, parlaci tu. Non sai veramente cosa dire. Luca, parlaci tu che sei un po' più morbido. Visto che l'interlocutore è mediocre e che il padrone di casa è in forma e ha i poteri, togliamoli la linea. No, non potete fare altro. No, ma non possiamo fare altro. Siamo qui che aspettiamo un argomento, però. L'argomento. Ma qual è la mia volgarità? Sì, è un argomento vecchio, già superato. Il modo nel quale si deve fare. È un argomento vecchio. Hanno scritto anche dei saggi su questa trasmissione. Se proprio lo vuoi sapere, è sulla mia volgarità. Hanno scritto anche delle tesi di laurea. Hanno scritto delle tesi. Io non mi sto esaltando, ma hanno scritto delle tesi di laurea. Sei arretrato, sei vecchio, sei superato. È un argomento già discusso, di cui hanno parlato. Cruciani, l'educazione e il savoir-faire non è mai superato. Forse per chi come te è un buzzurro, come ti ho già definito. Non è mai superata l'educazione, il ma savoir-faire, sai che se il tatto, sono dei valori che non cambiano. Che dici, Talese? Ingiuria. Ma no, ma se l'invettiva ha un senso interessante, tu sei proprio solo un cazzone. Stai dicendo solo sciocchezze. Ma che vuoi bello, ma che bello, ma che pensi bella coppia che ho trovato. Ti dia dignità, rimani. Senti un po', cretino. Perché sono un cazzone? Spiegami tre perché motivi. Perché sei noioso. Tre motivi. E tre. Sei imprevedibile. Due bastano, ciao. Uno. Ah, sei noioso, sei noioso, sei noioso. Sei noioso e sei imprevedibile. Vi siete zittiti tutti e due. Noi zittiti, noi siamo qua, stiamo. Zittiti di che? Ma zittiti di cosa? Cioè, stiamo ascoltando, stiamo cercando un argomento. Non dai argomenti. L'argomento dici che sono volgare, è una roba vecchia. È una roba vecchia. Chi fa radio? Ma rivolgiti al garante, rivolgiti a che ne so, a qualcuno. Ai, non sai più cosa dire, Cruciani. No, ma questo è malato. Cioè, ma questo ma qua è veramente malato, disturbato. Ma che c'ha? Mi senti, ti caghi addosso, è possibile. Tutte le volte. Ma cerca di affrontare la conversazione. Non puoi avere solo la signora Maria che ha fatto la prima elementare con la quale puoi inveire. Cerca di interrompere. Inveire di me. Che? Io ti lascio parlare perché sto cercando uno spiraglio nel buio, una luce nel buio. Ma il buio, sto cercando una lampadina, una lampadina nel buio della tua testa, della tua testa. Il buio lo vede chi è cieco, amico. Il buio lo vede chi è cieco. Ma tu hai una testa vuota. Il problema è che questo non sei in grado nemmeno di darmi una luce. Anche se mi attacchi, trova un argomento, uno, trovalo, ti prego, trovane uno. Perché non ne trovi uno? Hai detto che sono volgare. È 20 anni che lo dicono. Mamma mia, sei di una banalità. Tu non devi utilizzare la radio certi. Ma perché cosa? Ma perché non devi? Ma scusa, ma tutta l'Italia parla di Pompini. La parola Pompini non si può usare, vabbè, ho capito. Va bene, no, io ti dico una cosa. Sei tua figlia sente la radio. Se tua figlia sente la radio. Se mia figlia sente la radio saranno Pompini. Cosa le spiegate tu e tua moglie? Ma saranno affari miei se mia figlia sente la radio. Perciò quando c'è l'argomento sono affari tuoi. Quando non c'è l'argomento. Ma saranno mia figlia mi chiederà perché ho sentito una parola, oppure lo chiederà la mia ex moglie, eccetera, eccetera, perché papà utilizza quella parola. E io darò la spiegazione che in questo momento non ti so dire su due piedi. Non darò... mi sai dire, perciò per ma non lo so, gli dirò trattasi di pratica sessuale. Perciò, trattasi vedi, di pratica sessuale. Hai dato la prova. Vabbè, che usi dei termini che non consentono a un padre di dare una spiegazione. Beh, andiamo a Genova da un altro, che mi hai rotto i coglioni. Giovanni da Genova, dai, Giovanni. Giovanni, dimmi, Giovanni, dimmi. Ascolta, ti chiamavo per dirti che secondo me su Di Canio hai detto veramente una valanga di stronzate, nel senso che Di Canio è dipendente / collaboratore di un'azienda di comunicazione che è Sky. Sì, sì. Nei momenti in cui viene travolta questa azienda da proteste, rotture di coglioni, perché... Sì. A proteste di chi? Si sono resi conto che questo qui ha una scritta Dux su braccio, eccetera. Chiama Di Canio e gli dice: risolviamo sto contratto perché te mi fai dei danni e basta. Cioè, e tu stai dicendo, Giovanni, stai dicendo, è una tesi rispettabile questa qua, Telese. Cioè, l'azienda ha tutto il diritto di mandare via chi danneggia la sua immagine. Ora, questa roba qui. Ma allora la danneggiava anche prima. Esatto. Allora, questa roba qui può tenere se uno dice all'improvviso: guarda, fa un'intervista oppure un'uscita dicendo sono fascista, credo nel duce. Uno dice: ah, come mai? Non lo sapevamo prima. Ma cosa dici? Ma di che parliamo? Ma la danneggia nel momento in cui un gruppo di possibili utenti o addirittura utenti dice: ma tutti sanno di Di Canio. Ma tutti sanno quello che pensa Di Canio. Ma lo sai che sei dall'ambiente. Ma non è vero, ma non è vero. Ma Di Canio fa su Sky, non su Rai 1. Di Canio è una persona conosciuta in tutto il mondo. E danneggia Sky. Nel momento in cui danneggia Sky lo manda a fanculo. Vabbè, Giovanni, ho capito. Ma per carità, io rispetto la tua tesi, non sono d'accordo. Siete due cialtroni. Annata zappalatera. La zanzara. Caro Luca! Oh. Guarda chi ti presento. Una tua amica, Chi? Una tua amica, sì, una tua conoscente, amica, una persona che è stata ospite spesso nelle tue trasmissioni, Alba Parietti. Ciao Alba. Luca, ma come sei finito? Come sei caduto così in basso con quell'uomo così? Aspetta così che non ti sento, aspetta, sì, Alba, fatti Alba. Sentire meglio che non sentiamo una mazza, Alba. Ma come sei finito? Ecco lì, come ecco sei qua. Finito con quel no, uomo, ma io pensavo così. Di andare al Guggenheim e invece era la zanzara. Allora, devi sapere, Alba, devi sapere, Alba. Preso per un'opera d'arte, pensare che fosse Guernica. Cruciani è un'opera d'arte. Devi sapere, cara Alba, a parte che faccio 50 anni oggi, Alba, ti dico solo questo. Cosa oggi fai? 50 anni oggi. E si vede, eh? Beh, sì, si vede. Che cazzo vuol dire? Si vedono tutti. Ah, stai entrando anche tu nel reparto MILF. Sì, ma io sono già di mio MILF, capito? Sono già... Beh, ma io questo l'ho sempre saputo. Lo sai che questo tuo aspetto io l'ho riconosciuto al primo istante. Io fiuto in materia. Sì, vabbè, d'accordo, però ti dico che oggi fare 50 anni non me ne frega assolutamente nulla di passare... Ma non dire fesserie, se non te ne fregasse assolutamente da una parte sei quasi contento di esserci arrivato, perché oltre effettivamente il fatto che ti abbiano lasciato arrivare vivo... Cioè il fatto che sono vivo effettivamente è una... Darti una fracassata di botte era già, voglio dire... Dici il fatto stesso di essere arrivato vivo è un miracolo, no? Dovevi essere contento di essere arrivato vivo. Tu sei, da una parte, come dire, quasi non ci credi, dall'altra... insomma, un pochettino comincio a sentirti un po' una vecchia. No, ma quello tu ti sarai sentita vecchia a 50 anni, io no, io sono... Sì, io... No, vecchia no, però un brutto colpo, eh. Cioè, quello dei 50 anni è uno scherzo. Non è da festeggiare, dici, non è da festeggiare. No, rimani un po' male quando ti dicono auguri, tutto quanto, ti sembra che ti stiano pigliando per il culo. Un mezzo secolo di Cruciani. No, l'unica cosa che ho detto oggi, che mi è piaciuta, che l'ho detto a qualcuno, non mi ricordo a chi, che qualcuno che mi ha detto, beh, allora... oggi fai 50 anni, che siano stupendi i prossimi 50, ho detto no, veramente, aspetta, che fai con sto auricolare, ma sempre nei casini? Senti, ma facciamo una cosa, smettiamo di parlare di no, te, ma parliamo... dimmi che ti hanno detto. No, ma aspetta, un'ultima un cosa... Un po' di noi, chiedici cosa pensiamo di te, Cruciani. No, no, adesso questo te lo chiedo, però aspetta un attimo, c'è una cosa che ho detto, veramente non ho nessuna voglia di passarne altri 50, cioè questo... Ma guarda... Cioè, non ho. Non sai come siamo d'accordo con te. Per quanto ti riguarda, intendo dire. Sì, ma vuoi metterti col telefono normale senza via voce, auricolari? Se no, me incazzo. Ma come faccio a mettermi col telefono normale che tu mi chiami mentre io mi sto spostando? E allora fermati un secondo, perché sennò sentiamo malissimo. È inutile quello che dici, le cose preziosissime che dici, le cose molto importanti. Infrastrutturata. Che dici? Le cose meglio? Sì, esatto. Sei perfetta adesso. Le cose molto importanti che dici non si capiscono. Poi, siccome tu devi essere capita in quello che dici, anche nelle stronzate, perché ogni tanto qualche stronzata la dici anche te, non è che la dico solo io, eh. Poche, diciamo poche, che poco, sentila, molto poco se mi confronto. Vabbè, senti cara Alba, qui la prima discussione è Di Canio, il signor Di Canio, che ha un tatuaggio con scritto Dux, ed ecco, è stato sì. Sospeso da Sky, dimmi. Ecco, io l'unica cosa, dunque, sono d'accordo con la questione dell'azienda, che effettivamente se io sono rappresentante o mi rappresenti, puoi fare apologia di fascismo, mi sembra evidente, ma io temo che lui non sappia nemmeno cosa dice, hai capito? Quando voi dite quello che pensi, non credo che uno pensi, perché c'è uno lui, non può pensare di Canio, dici? Un tatuaggio del genere, eh? C'è uno che, si fa un tatuaggio del genere è un cretino, secondo te? Ma come minimo? Ma come minimo, voglio dire, sinceramente, l'hai detto tu, la correva te la becchi tutta tu. No, sto dicendo, no, è una domanda. Eh? Una domanda: chi fa un tatuaggio con la scritta Dux, come lo definisci tu? Allora, cerca le parole giuste per non farti, per non farti portare in tribunale. Domande a Canio, aspetta, Io vorrei fare delle domande a Canio. Di Canio, non Canio, manco sai come si chiama. Di Canio, di Canio. Come potrebbe dire Donald Duck, cioè voglio dire, lui dice le prime cazzate che gli escono da se le fa tatuare, sembra una roba. Però scusa Alba, veramente non ti caglio, siccome stai dicendo delle cose, ferma, non ti sentiamo, se non ti fermi non ti sentiamo, è inutile, cioè se non ti fermi e non prendi questo telefono come va preso, non prendi il telefono. Guarda che tu riesci a metterci qualcosa di insano addirittura in una frase del genere. No, ma togli, no, ma appunto, se non riesci a prenderlo come va preso, ho detto il telefono. Gli dai un cazzotto da parte mia gentilmente, poi te lo restituisco. Ma il telefono, sto parlando il telefono, ma sei tu che pensi a cose strane. Io parlo solo al telefono. Sei tutto un doppio senso triviale. Ma quando mai? Ma quale doppio senso? Io non faccio mai doppi sensi. Allora dai, prendi il telefono bene, sennò veramente chiudo. Ma non ti preoccupare. L'hai preso? L'hai preso o no il telefono? L'hai preso. Va bene? Vabbè, allora io non ho capito. Luca, dove sei? Luca, dove sei? Non ho capito. Sono qua che vi ascolto, mi avete sorpassato. Luca, ma proprio. Quanto tempo pensi di sopportare tutto ciò? No, io sopporto e ammiro, perché vedo in questo compleanno che stiamo celebrando, fra parenti doppi sensi, invettive, vedo una celebrazione fantastica. No, ma io voglio dire una cosa. Come definisci Di Canio? Un cretino, un imbecille, un ignorante? Come lo definisci? Ma come, ma francamente ignorante molto, sì. Ignorante direi la base di tutto, perché se uno è un personaggio pubblico comunque la pensi, voglio dire, non può... Non si può presentare con le maniche corte col tatuaggio con scritto Dux. No, francamente no, ma comunque la pensi. Uno può essere anche più grande estimatore del Duce, cosa che peraltro sono in tanti, non è mica il solo, però non lo può esibire su un braccio se pensa di... In più ha fatto il saluto romano, insomma ne ha fatte di cazzate, ma soprattutto delle cose che secondo me non sa cosa significano, hai capito? Perché ma, uno è libero, magari ha studiato, che ne sai, quello che gli pare, ma non lo può fare in una squadra. Cioè uno che si tatua, uno che si fa un tatuaggio con scritto Dux, ma dipende che cosa fai nella vita, scusami, sì. Se tu fai il punk a bestia o piuttosto che ne so, se tu fai lo scaricatore, l'artista, quel cacchio ti pare, se tu rappresenti solo te stesso puoi fare quel cavo, puoi girare, se vai in televisione non puoi mostrare un tatuaggio, ma lui rappresenta solo se stesso. Scusa Alba, ma perché non ammetti la diversità? Di Canio rappresenta qualcosa, se stesso, e non è quello che immaginiamo tu ed io, non ha i gusti che abbiamo tu ed io e basta, punto, non succede niente. Sì, però a me, io allora al posto di un'azienda come Sky, che comunque lo vede come, non lo trovo sbagliato da parte loro di criticare e di capire che questo, cioè, non può fargli del bene, ma insomma non è sì, però ragazzi, ma allora lo sapevano prima, e questo lo sapevano prima, lo sapevano prima, cioè, lo sapevano prima che non era particolarmente intelligente di Canio, non lo so che cosa sapevano, ma sapevano prima che era fascista, che comunque è stato fascista, ma che... allora che uno sia fascista, io posso essere, no, ma lui lo ha detto più volte, ma io non posso andare in una trasmissione televisiva, non so, Nazionale Popolare, e fare il pugno chiuso, scusami, eh. No, veramente, se fai il pugno chiuso ti fanno diventare il capo del mondo, è diversa la cosa. Se sì, ma figurati. Guarda, figurati, se la cosa questo non è se lui radiata da qualsiasi, ma quando mai, no? Se lui avesse avuto un tatuaggio con la falce e martello, tu non è che hai i tatuaggi della falce e martello, no? No, è molto diverso. Scusa. Perché è diverso? Un bel po' di diversità. Perché è diverso? No, perché no, è diverso, non ho capito. Il comunismo ha fatto un sacco di morti. Allora, ha fatto un sacco di morti il comunismo. Quello che rappresentava il Partito Comunista Italiano, tra parentesi. Hanno fatto un sacco di morti i comunisti. Il fascismo purtroppo è stato un periodo nero legato al nazismo, come tu ben sai. Alba, e di conseguenza, la falce e il martello ha provocato morti più del nazismo e del fascismo in tutta la storia. In nome della falce e il martello, lascia perdere l'esperienza italiana. Ma adesso, no, guarda, allora, voglio dire, tanto per cominciare, io non vado in televisione con la falce e il martello, quindi già questo problema non si pone. Il problema non ci sarebbe stato. Nemmeno, posso dirti, io posso portare le mie idee dove mi pare, dire che sono fascista piuttosto che comunista, piuttosto, motivando. Vabbè, magari, ho capito. Secondo me non sa di che cosa parla. Questo cioè Di Canio non sa di che parla, ma che ne sai tu? Ma che non lo sa. Lui gioca, un bravo calciatore, deve fare il calciatore. Ma il calciatore l'ha fatto fino a 10 anni fa, 15 anni fa. Ma è una vita che non fa il calciatore, fa il commentatore. È un bravo commentatore, apprezzato bene, da tutti. Ho capito, ma in un ambito calcistico dove lui deve commentare il calcio è andato in maniche corte. Politiche, ma non ha portato le sue idee. Personalmente io penso che non ci siano nemmeno, perché francamente posso avere rispetto di tutti, ma tranne delle persone ignoranti, perché non cioè un ignorante è giusto mandarlo via, allora giusto mandarlo via, vabbè, ho capito. Ma no, non è che è giusto mandarlo via, io capisco perfettamente che l'azienda che si ritrova criticata abbia deciso di sospenderlo, ho capito, abbia dei bei problemi. Va bene, ferma lì. Pronto il telefono, amico? Ah, è la Zanzara. Vabbè, è uguale. La Zanzara. E ci si diverte a bestia qui alla Zanzara, cari amici miei, 800240024, oppure i vostri messaggi vocali su WhatsApp 393-7171-701. Beh, siamo veramente al top. Paolo Ruffini per noi. Allora, Alba Parietti dice che Di Canio è sostanzialmente un ignorante, che non sa nemmeno il significato della parola fascista, e che un'azienda ha tutto il diritto di mandare via, sospendere uno che diciamo danneggia la sua immagine. Però, cara Alba, no, ma questo, ho riassunto bene il tuo pensiero? Meno male. Allora, la tua libertà finisce dove comincia la mia. E questo vale anche per un'azienda Cioè, se tu fai apologia di fascismo, ti prendi le tue responsabilità. Quindi hai ma non ha fatto diritto. Apologia, non ha fatto apologia, ha ma mostrato, scusami, ha mostrato un suo tatuaggio perché si è messo a maniche corte. Si è messo a maniche corte dove aveva un tatuaggio che tutti, di cui tutti conoscevano l'esistenza, perché ha fatto mille foto nudo, ci ha pure tatuato dietro altre cose, aquile, cose, scusami, simbologie fasciste. Tu vai in televisione, no? Non so se ti è mai successo. Ma io non ho tatuaggi, vedi per cui una qualsiasi pipita, ti mettono una pezzetta sopra perché non puoi pubblicizzare qualcosa. Sì, allora, un'azienda. Tanto meno il fascismo. Voglio cioè, dire, tu ci ha fatto pubblicità del fascismo? Sì, ho capito. Dice, ha messo. Ecco, allora, e le tue idee le manifesti altrove in una circostanza? Perché purtroppo. Ho capito, ma quello ha il tatuaggio, che deve fare? Se lo deve scartavedrare? Ma andare... tu diventi, scusami, tu diventi uno spot vivente di quella. Di, anche se tu c'hai scritto, posso dire la parola Coca-Cola? Cioè, voglio sì, dire, sì, non certo. Può, io se mi tatuo Coca-Cola. Non posso più andare in onda col mio braccio. Cioè lui ha tatuato Dux, perché? Dunque la parola Dux è, diciamo, lo spot del fascismo, e tu non puoi fare spot per il fascismo. È evidente, voglio dire, perché evidentemente lui non conosce le cause effetto delle cose che fa, perché se lo sapesse, se sapesse che peraltro sul fascismo c'è, ma non è che ce l'ha scritto in fronte, ce l'ha scritto su una parte del braccio, dai, su, cioè ce l'ha scritto su una parte del braccio, non è che ce l'ha scritto in fronte o ce l'ha scritto davanti, non è che l'ha mostrato, ma purtroppo ce l'ha scritto anche in fronte in un certo senso, cioè in testa ce l'ha, dici, è bagato in testa, è bagato, cioè, è bagato in fronte, testa, nel senso, oltretutto ti ripeto, il fascismo non è una, vedi, il problema è che la storia in Italia la conosciamo veramente poco. Vabbè, senti Alba, no? Però ti voglio chiedere una cosa sulla ragazza che poveraccia si è ammazzata, no? Per la storia, sì, del video hard, come la pensi? Cioè, pensi che sia anche un po' colpa sua che ha diffuso quel che ha diffuso, no, cioè che ha fatto quel video? No, allora la colpa è di chi non ha saputo capire che la situazione era tragica. Vabbè, cioè, nel senso che una ragazza che comunque prima viene portata a fare un video. Viene portata, magari è consenziente. Non magari... lo ribadiamo perché c'è una possibilità che a me fa anche un po' schifo. Poi lo diffonde, non si capisce per quale motivo. È chiaro che una ragazza che ha dei problemi. Cioè, si sta già ammassando da sola. Ma perché? Che problemi ha? Ha fatto dei video porno con altre persone? Ma qual, scusami, è il problema? Scusa, allora, non ho capito. La sua dignità innanzitutto la sta proprio uccidendo, no? Ma perché? Non ho capito. Una che fa dei video porno uccide la dignità. Perché? Cioè una che fa dei filmati in cui si riprende. Tu non so se hai letto bene la ricetta. No, ma ho letto molto bene. Sei tu che non l'hai letta. Il fatto di... Allora, quando uno ha un'intimità con un uomo, purtroppo dovrebbe sempre domandarsi con che persona... ce l'ha, perché purtroppo l'uso e l'abuso di queste cose a parte degli uomini. Ho capito, ma perché non si possono non fare degli uomini anche delle donne, perché ma perché non si possono fare video porno? Non ho capito, non si possono fare video porno privati in cui ma uno cosa si cosa stai dicendo? Ma non si possono fare video porno, certo che si possono fare. E allora tutti. L'avrai fatto anche tu, immagino. Certo che ne ho fatti, non c'è dubbio. Che tu non abbia mai fatto vedere a un tuo amico o diffuso certo, qualcosa. No, diffuso, l'ho fatto vedere a delle persone, certo, assolutamente, ma qual è il problema? Non si è mai diffuso nulla perché hai fatto vedere i tuoi video porno con altre donne che non sapevano che tu ne avresti fatto. No. Ma perché devi dire cose che non ho detto? Ma perché devi dire cose che non ho detto? Ho detto che in tutti noi esistono dei tuoi video fatti con qualche uomo in giro, per esempio, no? Cioè che questi saranno poi fatti miei. Beh, se ti dico una cosa, rispondimi pure tu, no? Cioè io se ti dico esistono ho dei miei video del passato, eccetera. Ma per quale motivo io dovrei mettere questo tipo di intimità in piazza? Ma non l'ha messa in piazza questa ragazza, li ha dati, cioè questo video qua erano in possesso pare del suo fidanzato. Qualcun altro poi li ha messi su web. Lei che c'entra, scusami? Perché dici che era disturbata? Dire, scusa, perché dici che era disturbata? Di tutti i colori di questa storia, compreso che lei per i picchi avesse dato questo video, possibile. Così avevo capito. Ma qualsiasi cosa questa ragazza abbia fatto, perché diceva aveva dei problemi? Che era una ragazza che aveva una situazione proprio psicologica. Perché? Disperata, no? Perché disperata? Voglio non dire, ho capito. Allora, ha fatto dei video, punto. Disperata perché è disperata? Non ho capito. Che non si possono fare dei video per ma allora, già solo il fatto che comunque questo video sia finito in rete non è normale. Ma no? Questa è colpa dei ragazzi, per mica è colpa sua. È colpa allora, il fatto è finita in mano delle persone che ne hanno fatto carne da macello. Infatti, questa ragazza si è suicidata. Voglio dire, non è che capito, ha fatto un piacere. Ma lei che colpa ha? Non ho capito che colpa ha lei. Cioè, è stata imprudente. Io veramente non ho detto che lei ha colpe. Tu mi stai come al solito mettendo no, in bocca... No, hai detto che è un po' disturbata la ragazza. Questo hai detto, che è un po'... Ma secondo te una ragazza, voglio dire, io so che questi video sono stati diffusi da lei. Questo no, non sono stati diffusi da lei, assolutamente. Non sembra che siano stati... No, ascolta. Ah, agli amici, dici. Agli amici, sì. Vabbè, ad amici sì, tuoi, e allora? Quindi non si sa... E allora? Ma, e allora? ma per quale motivo una persona, se non ha un problema di grande difficoltà proprio di vivere, deve mandare i video, un video del genere? Ma per mille motivi, ma certo non si aspetta che questi qua finiscono poi sul web a disposizione di tutti. Cioè non... Allora, ma scusami, ma perché tu vuoi portare la conversazione dove cavolo ti pare a te, non facendomi dire delle cose che non sto dicendo? Io dico semplicemente una cosa, che se a me succede una cosa del genere, cioè fai? Una mia amica mi manda un video del genere, io la prima cosa che faccio, vado da lei, parlo con i suoi genitori, cerco di capire qual è il suo problema, perché è chiaro che in quel momento questa ragazza stava già comunicando. Ma vedete, è un moralismo che non capisco. Sei di un moralismo pazzesco. Cioè, sei di un moralismo. Cioè, uno non può fare video, non può fare dei video e darli a delle persone. Senti, scusa, Cruciani, ma se secondo te questo è normale, tu lo fai, allora ti fatti io sempre. No, non lo faccio, non lo faccio. Non lo faccio. Ucciderai per questo, ma lei non lo faccio. Quindi, evidentemente, questa cosa non le ha fatto bene, no? Ma non, lo, non, li, non voleva che finissero sul web. Vabbè. Non voleva che finissero sul web a disposizione di tutti. Vabbè, senti, voglio sentire Donato da Varese. Vai, Donato, che hai da dire? Pronto? Dimmi, Donato, dimmi, dimmi. Allora, con tutto il rispetto, mi rispetti, sì, allora, meno male che mi rispetti. No, anche certamente a te ho sempre rispetto, perché sei l'unico uomo in Italia. A livello mediatico, che non fai parte di quell'agglomerato mondo di merde, di luridi idioti. Allora, io ma chi sarebbero questi luridi idioti? Scusa, spiegami. Tutti quelli che adesso, stanno, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, chi è morto e chi è sta morto, cioè tutta gente venduta, venduta. Allora, io non voglio urlare. Beh, non voglio urlare, stai urlando. Quel grande giocatore che si chiama quello per essersi, per il fatto che facesse gatto, si è messo con l'avambraccio, gli hanno visto una cazzata, una non cazzata, sull'avambraccio, l'Italia che sta andando in merda, stai calmo. Addirittura lo estromette da quel programma perché c'ha una cazzata sull'avambraccio e non ci rendiamo conto dei problemi che ci sono in Italia. Vabbè, quello che c'entra. Dì a questa Parietti, dì a questa Parietti. Che devo, ma che devo dire Alba Parietti? La Parietti dice che lui non è un ignorante. Ma tu sai quante Parietti che ci sono in Italia? Che vuol dire quante Parietti? Una ce n'è. Sono quelle che hanno contribuito a distruggere questo paese. Perché quella lì, perché la donna che ma perché che ha fatto? Non ho capito. Non è una criminale. E che vabbè. Non è una No. Non è una prostituta. No, questo no. È una comunista. È la cosa più obbrobriosa della terra. Ma non è comunista. È una comunista della vita chic, sempre. Ma non è comunista. Uno, due, a parlare, ma non è comunista. Non è, Donato, non è comunista. È di sinistra. Di sinistra, sì, sarà permesso essere di sinistra, o no? Domani, se vai a dire a chi butti sulla torre, Stalin o Mussolini, lei non male che Mussolini gli butta l'olio. Ma magari tutte e due butta, Allora, Mussolini ha fatto delle cazzate, benissimo. Vogliamo riscattare qualcosa di buono da quel grande uomo che qualche cosa ne ha fatto. No, questo no, Donato, questo come non si no? Può. Ma no, dai, no, ha fatto delle cose buone. È come dire uno che è stato un dittatore, no, ha fatto delle cose buone, le ha fatte. Ma dai, ma su, ma delle cose buone. Ma che ha fatto di buono? Nessun uomo è tutto cattivo. Nemmeno Hitler era tutto cattivo, che non mi interessa un cazzo di quello assatanato. Io ti sto dicendo. Ho capito. La Parietti. Cioè, la Parietti che fa adesso, che c'ha in testa? Allora, la Parietti, come dico lei, tutte quelle che ne assomigliano, perché la televisione assomiglia, chi assomiglia? Ma è una, ce n'è Alba Parietti, c'è sempre stata una, che c'è stata 200. Ma come lei in Italia? Ma come lei? Non è che uno è clonato. Sono quelle che promuovono quel porco di Bersani che ha istituito. Ma che è pazzo. Quel porco di Prodi che deve essere messo in galera, quell'individuo. Chi Prodi? Quell'individuo in un paese civile deve essere messo in galera. Ma chi deve essere? Anche da stigmatizzare Alba, aiutami tu. Alba, aiutami tu, ti prego. Alba, aiutami. Altro che mettere la bellina di Cane. Di Cane è una persona. Aspetta. Fermo. Molto intellettuale. Donato. Delle Parietti di turno. Ma che c'entra la Parietti? Alba, aiutami tu. Io non so cosa dire. Ma no, ma cosa ti vuoi che sei tu che dai la parola a questi? Ma qui tutti hanno la parola. Qui tutti possono avere. Tutti hanno diritto di parlare. Sì, tutti voglio hanno dire io, però. Cioè, pensavo fosse un comico della trasmissione, no? Beh, sì, diciamo che comico non è un comico, è un signore. Ma perché che non fa ridere, però ce ne sono tanti comici che non fanno ridere, quindi pensavo fosse un comico. No, non è un comico. Se la piglia con te dicendo che fai parte del giro, diciamo, dei radical chic, del giro della sinistra televisiva, eccetera. Però, insomma, sinceramente. Sì, no, guarda, purtroppo per me io non faccio parte di nessun giro, si vede bene. Capito, Donato, non fa parte di nessun giro, cioè non è del, no, de, non se è del facessi giro. Parte di qualche giro avrei qualche vantaggio in più, diciamo. Capito, Donati? Lo sento le parietti, ma è tutti, ma tu non ce n'è uno, ma le parietti? Ma Rai 3, quando vogliamo sfondare il culo a Rai 3? Ma che c'entra Rai 3? È una Rai anche mia! Ma che... è una Rai anche mia! Ma che c'entra? Ma che c'entra allora, Rai 3 adesso impazzito? Rai 3. Ma io devo andare via, ma non ci voglio andare a Rai 3! Ma non ci voglio andare a Rai 3! Bisogna batterla! In Rai 3 ci mettiamo 100 giornalisti, tutti di destra! Tutti di destra! Ci sono stati per 50 anni quei maledetti porci, quei mangiasangue! Ma chi sarebbero? Chi sarebbero? Quegli scafandri di merda! Ma chi sarebbero i comunisti? Devono andare fuori da Rai 3! Ma l'avete vista Rai 3? Ma sì, ma è una vita! Ma è una mafia! Ma la conosciamo Rai 3? La conosciamo Rai 3? Sono porci grassi, opulenti! Ma come porci grassi? Non vuole mai nessuno! Ma che significa? Che deve essere riscattata! Deve cadere nelle mani dei veri italiani! Che vuol dire? Non quelli che stanno distruggendo l'Italia! Ma non vuol dire nulla! Ma non c'entra Prodi, non c'è più! Ma non c'è più Prodi! Vabbè, Donato, però Prodi. È uno. Ora, Rai 3. Prodi un assassino! Ma come un assassino? Che mi venga a mettere in galera. Non ci credo, Prodi, qua non è d'accordo. È un assassino! Crusciani, non dimmi. È possibile. Dimmi. Non è possibile, questo è amico tuo. Ma non è amico mio. L'ho pagato da voi. Cioè, dai, non può essere tutto così. Ma perché dici che è un comico? Perché se no ho paura di andare in giro veramente. Perché alle 8 di sera, queste così, pensa come sta a mezzanotte, voglio dire. Donato, sei sempre così pure a mezzanotte? Sono morti con le statue di Lisbona. Questo, anzi che preoccuparsi della cazzata che c'è di cane sull'avambraccio, vergognati Parietti, vergognati. Ma tu e tutto quel mondo nefando della sinistra state rovinando l'Italia. Ma chi sta rovinando l'Italia? Non c'è più l'Italia. Vai a dire a Renzi che deve fermare quello sporco imbroglio. Chi di cosa? Quei mafiosi. Di chi? Che mangiano solo dalla mattina chi? Alla sera. Chi? Sulle spalle nostre. Chi sarebbe? Per far entrare gli africani, i falliti, sunniti, islamici. E mentre i nostri italiani non sanno di che vivere. Aspetta. Parietti. Scusami, Parietti. Ti voglio vedere a piangere un italiano che stasera non sa che cazzo mangiare! Ma che vuol dire? Vergognati! Ma perché si deve vergognare la Parietti? Hanno un'oretta, questo ha un'oretta. Pronto? Dimmi. No, questo è uno psicopatico totale. Ha un'oretta? Dicevi? Che ne so, è intervenuto uno, che ti devo dire? Vabbè, dai, un'oretta di che cosa? Spiegami. Un'oretta Cruciani, di... ma di psicopatico a pagamento ce n'è già uno in trasmissione, ci sei tu, non due sono troppi. Ciao Alba, ciao. Ciao. La mia mente è ormai controllata completamente da voi. Siamo al La Zanzara. Luciani, ho appena fatto la doccia, diversamente da te, tra l'altro. Ma tu non dovevi farti inculare? Cruciani, da quando è messo in vendita il tuo culo, ho una missione nella mia vita. Ho venduto il mio bilocale a 70.000 euro. Quest'estate ho lavorato come un pazzo, straordinari su straordinari. Sono arrivato a 80.000 euro. Preparati, sto arrivando. Siamo al top. Cruciani, ma ti torni il prossimo anno, vero? Io mi devo bagnare, perché tutte le volte che ascolto la tua voce mi bagno tantissimo. Come faccio senza di te? Cazzo, sei meglio di un vibratore. Cruciani, ma il traffico durante la zanzara dovrebbe diventare un reato penalmente perseguibile. La zanzara. hour's time. David, ma ogni volta per cercarti è un casino. Mi dicono adesso che stai facendo un giro in albergo, ti sei trasferito di stanza. Dove cazzo stai andando? Guarda, no, calma, calma. Questa volta sono giustificato. Mi sono trasferito di stanza perché nell'albergo del quale alloggio, della grande Tel Aviv, albergo patria, quante stelle? Patria dell'Occidente. Quante stelle albergo? Abbiamo ribadito. Ma che quante stelle? Non lo so, è una delle... Ma chi ce ne frega delle stelle a noi? Sono tante, non sono più, ecco, 5 stelle. Sono... Allora ti passo questa persona che sono andato in camera sua e gli ho invaso la camera. C'è una camera meravigliosa. Ma chi è? Pazzesca sul mare. Te lo passo, riconosco della voce. Tel Aviv! Chi è? Sì, pronto. Buonasera, chi è? Se non mi riconosci, guarda, andiamo male. Aspetta, l'architetto Fuxas. Sì, certo. Cioè, come stai? Architetto, come stai? Ma come stai te? Dai, ma hai incontrato David in albergo? Ma siete, cioè, avete in comune questa cosa? Ma tu non sei ebreo come Parenzo, no? No. Penso di sì, però non credo che sia una delle referenze essere ebreo, è come dire essere piemontese. Sì, ecco. No, per carità. Se tu non credi, purtroppo non hai il dono della fede, puoi essere nulla. Di qualunque cosa. Ecco. No, io nulla. Il problema sono... è la fede, è là. Senti una cosa, no, ti voglio dirti, ma la Raggi che sta combinando secondo te? Come la giudichi? Ma guarda, io ho un'idea. Credo che loro sono stati selezionati con una specie di algoritmo, perché sono tutti della stessa categoria, cioè adesso hanno scoperto che Di Maio, che doveva diventare il presidente del mondo, che era vestito da prima comunione, lui crede che fare il presidente del Consiglio, di rivestire con la cravatta da prima comunione, con la giacchetta, orrendo, era proprio vestito da prima comunione. Orrendo, diciamo la verità, orrendo, dai. Era vestito da prima comunione, diciamo, che credo sia anche peggio. Come sono stati selezionati? Credo che fanno parte tutti di una stessa categoria, cioè? Credo che ci deve essere un algoritmo che è facilissimo per uno che fa informatica e studia informatica, trovi un algoritmo che seleziona un tipo che tu dici giovane, che ha fatto pochi studi, perché questo ragazzo ha fatto prima, ha provato a fare legge, prima ha fatto ingegneria, poi ha fatto un web e non l'ha fatto, poi l'ha abbandonato, ha fatto un web sugli ex studenti di ingegneria, qualche cosa del simile. Poi da lì ha fatto un'altra cosa, il webmaster, giurisprudenza. Cioè tu dici sono tendenzialmente poco acculturati. No, culturali, sono gente che vive non ha studiato in un altro mondo. Sì, ma comunque qui c'è la Raggi. Come la vedi la Raggi? Incapace, una bambolina? No, la Raggi fa parte della stessa cosa. Poi sono tendenzialmente di quartieri popolari, ma orientati un po' a destra. Dunque c'è Lazio Latino, ad esempio. È un po' di destra, secondo te, la Raggi? Sì, un pochino, poi conosce tutti quelli di destra, cioè io mica per caso, io ci ho andato a fare l'apprendistato, io non sono all'avvocato, da Previti, poi sono passato a San Marco, hai capito? Sì. Poi è un ambiente che sembrano tutti simili. Senti, ma cosa vuol dire il referendum, non lo sai? Il referendum? Guarda, cioè io mi tengo Matteo Renzi, va. Sì? E me non so che fare, scusa. Per cui 5 Stelle quando dicono... Lo dovrei dire in segreto, non lo dovrei dire a nessuno, però... Non c'ho una paura che le cose precipitano di male in peggio. E chi ripare viene Di Maio. Salvini. Di Maio. Oppure Salvini. No, Di Maio. E alla fine i 5 Stelle sono il primo partito, cioè non va sottovalutato questo fatto, ecco. Senti una cosa, ma hai tolto qualche soldo a Sgarbi alla fine o no? So che c'è dell'udienza in corso, sei riuscito a togliere qualche cosa? Sì, fra pochi giorni c'è un'udienza, speriamo che non si dia malato, ecco. Ma quant'è che alla fine quanto ti deve dare per tutto quello che ti ha detto? Non lo so, mi dovrebbe dare tantissimo, però io, dato che ho deciso già una donazione, cerchiamo di elevargli più soldi possibile, perché quella persona a cui facciamo la donazione è un grande scienziato, ecco. Adesso non è inutile ricordare quello che ti ha detto. Sì. No, te lo dico, che mi ha detto che era un ladro. Che eri un ladro, sì. E quanto però deve... lui è un truffatore. Lui è un allo Stato. È un pregiudicato, anzi. È un pregiudicato. È un pregiudicato Sgarbi. Beh sì, è uno condannato per... No, per... pregiudicato, cioè uno che è stato condannato è un pregiudicato. Vabbè sì, un pregiudicato adesso non è come Totò Riina, insomma è diverso, no? No, non facciamo, cioè, uno che ruba i soldi allo Stato non è una persona carina, ecco. No, ma questo non c'è dubbio che non sia una persona carina. Tu come sai? Stato pure condannato per questo, perciò il primo che deve stare zitto è lui. È lui. E quanti soldi gli hai chiesto tu? Non lo so, gli ha chiesto l'avvocato. No, io più o meno. L'avvocato quanti... Coppi, lo conosci? Coppi. Come no, Coppi, per carità. Mai mettersi contro Coppi, mai mettersi contro Coppi. No, Coppi è una persona seria. Sì, no, ma quanti soldi gli hai chiesto? 200-300? Ma non lo so, queste sono le cose che decidono gli avvocati. Io poi figure, guarda, io sto qui per lavorare, capito? Scarpi non sta nel mio, nella mia vita, nel mio cervello, per fortuna. E io per fortuna non sto nella sua. Beh, ogni però tanto con lui qualche cosa ci ha guadagnato, come, perché così va in televisione, parla, fa audience, capito? Se diceva che Peppino Sparagna era un delinquente, nessuno gli dava rette, capito? Invece ha detto che tu con tutti i tuoi progetti hai rubato i soldi allo Stato, insomma, questo dice. No, rubato i soldi, non hai rubato i soldi. Vabbè, lui è incazzato per quella roba là, insomma. No? Ma lui non lo so, perché lui è per lui stesso, per se stesso. Cioè, perché come lo giudichi? Lui non lo giudico, non so che gli è preso, veniva a casa mia, si portava degli amici, si faceva offrire da bere, da mangiare. Io non sono mai stato a casa sua. Ma come dire, un pazzo scatenato, com'è? No, credo che sia uno molto razionale che cerchi di trovare tutti i sistemi per andare in televisione e farsi pagare un cachet, ecco. Ma comunque in ogni caso... Vive di questo, lui vive, poi solo di che vive. Che ne so, vive, è uno storico d'arte, dell'arte, uno che... Io non lo conosco proprio. Non lo conosci da questo punto di vista, no? No, no, per niente. Lo conosco come uno che girava, tanto girava. Girava, cioè girava tu come... Gira il mondo, gira il mondo. Comunque, chiudendo la vicenda Sgarbi, tu dici, dovrebbe... No, non l'apriamo neanche. No, dovrebbe stare zitto perché è pregiudicato, dici. Dovrebbe stare zitto perché è pregiudicato. Ma lui è pregiudicato, lui è stato condannato per truffa contro Stato, perché lui invece di andare a lavorare, perché era un impiegato del Ministero, lui diceva, trovava le scuse dicendo che stava male per anni, sì, e ha preso stipendi per anni. Sì. Così o no? Questo sì, è, lui dice al contrario, che c'è un giudice che lo voleva condannare per forza, invece non era così, eccetera, eccetera. Sì. Vabbè, lui sostiene. No, vabbè. Ma questi sono fatti suoi, io non gliel'ho mai detto, a me non me ne frega niente, perché io non, figurati, non guardo mai... il tronco, il mio tronco, penso se guardo la sua pagliuzza, ecco. Va bene, ciao, grazie, ciao. Raffaele Napoli, dopo lo show di Fuxas. Raffaele Napoli, vai. Ciao, buonasera. Volevo intervenire sulla faccenda di Tiziana Cantone, se è possibile. Vai, dimmi. Non pare che non ci sono tutti gli elementi per poter tirare fuori una faccenda definitiva. Pare che il dato di fatto è che la ragazza purtroppo è morta. Ed è morta per quello che è successo. Tuttavia, pare che ci siano... Innanzitutto non c'è un video, quello che poi l'ha resa famosa. Almeno io ne ho visti almeno 5. Sì, in sì, cui la ritraevano in diverse... Quindi non è un video che l'ha resa famosa. Tuttavia, resta il fatto che... vero come è vero. Ci sono dei colpevoli. Perché quello che io non riesco a capire è che mi sono sentito in qualche modo chiamato in causa in quanto qualcuno ha detto che tutti quelli che hanno visto o hanno fatto... Ma questa è una puttanata, Bravissimo. Quello che però mi ha fatto spavento è che stamattina la mamma ha dichiarato che la ragazza non era completamente in grado di intendere e volere, perché ha avuto un passato di alcolismo, era fragile, e il fidanzato pare, o l'ex fidanzato pare che l'abbia in qualche modo plagiato. Quindi diciamo che... Vabbè, questo lo sappiamo già. Cosa vuoi dire? Qual è la tua opinione? Perché non ci raccontare dei fatti. Non ci sono elementi per poter dire se effettivamente Tiziana ne fosse o meno consapevole di tutto quello che è successo. Scusa, amico mio, tu hai chiamato per dire che non ci sono elementi per dire se era consapevole o no. Ma noi che cazzo ce ne frega di questa roba qua? Spiegami. Cioè, Raffaele, tu stai chiamando in una trasmissione in cui si dicono delle opinioni per dire non ci sono elementi per stabilire se Tiziana era consapevole o no. In quanto tale, rispetto a dire questi che tu chiedi, ne dici tante tu di cazzate, fammene... Ma non è una cazzata, è una cosa che non sappiamo se era consapevole. Vabbè, d'accordo. Poi? Già questo basterebbe, perché è un'opinione. La questione è questa. Non è un'opinione, non è niente, non è nulla. Solo perché è mia un'opinione, lascia perdere quello che tu pensi. Solo perché è mia un'opinione, non è il problema in questo. La questione è che tutti stanno dicendo che io, solo perché ho visto il video di questa cristiana, devo essere no, ma questo non sei colpevole di nulla, perché chi ha visto il video, chi ha visto, non può dire niente, nemmeno tu che possa dire che la ragazza sia o meno colpevole nell'aver fatto questa cosa. C'è una responsabilità della Cantone? Non lo sappiamo, non si può sapere, perché nel video, così come ha dichiarato anche per la causa, sì, che ma Raffaele, ma questa non è porta a porta, scusami un attimo, tu stai dicendo semplicemente siccome ho visto il video non mi sento colpevole, e fin qui va bene. Che lei non abbia responsabilità fino a prova contraria, non ha contribuito alla diffusione del video sul web, e dunque, a meno che, ripeto, se verrà dimostrato che lei ha contribuito a diffondere il video sul web, allora questo è un altro discorso. Fino adesso siamo al fatto, dice la madre, ci sono le indagini eccetera, che ci sono delle persone cui lei o il ragazzo hanno consegnato il video, hanno consegnato forse il video, che poi l'hanno distribuito sulla grande rete. Fino adesso siamo a questo. Ciao. Pronto, Radio Cloaca Massima? Hai la zanzara? Vabbè, ua. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Io quando cago, prima appoggio sull'asse la natica destra, poi con la mano prendo quella sinistra ed allargando il solco orizzontale l'appoggio sull'asse, mi piego in avanti e vai, siamo al top. Cruciani, di cagnone imbecille, va solo da mettersi la camicia, ha ragione Parenzo. Io faccio il medico, se domani vado al lavoro con scritto morte sulla fronte e vengo allontanato, non penso che ci sia nessuno che abbia nulla da obiettare. Allora ragazzi, i vegani si scannano tra di loro, esistono ormai addirittura delle correnti. I vegani moderati, diciamo alla Red Ronnie, e i vegani estremisti alla Daniela Martani. Da dove iniziamo? Iniziamo dall'ultima cosa, va. Cioè la Martani che dice, sentite come si scannano tra di loro, io godo da matti. Red Ronnie scaccia i pidocchi e poi mangia la matriciana. Martani. I pidocchi. Non ho capito comunque questa cosa di Red Ronnie dei pidocchi, poi quando poi ha praticamente dato il suo beneplacito alla raccolta fondi per Amatrice mangiando la pasta alla matriciana, cioè c'è qualcosa che è dissonante. Vabbè, non... Allora, questa è l'ultima cosa, eh? Red Ronnie scaccia i pidocchi e poi mangia la matriciana. Come fa a sapere che... Ma io vorrei risentire questa cosa qua, eh? Risentiamo questa cosa qua. I pidocchi... Non ho capito comunque questa cosa di Red Ronnie dei pidocchi, poi quando poi ha praticamente dato il suo beneplacito alla raccolta fondi per Amatrice mangiando la pasta alla matriciana, cioè c'è qualcosa che è dissonante. Vabbè, non mi risulta che abbia mangiato la matriciana. Pochi giorni fa da noi aveva detto addirittura, pensate che accusa per i vegani, che lui non è un vero vegano. Ma non è vegano Red Ronnie, no? Ma se una persona mangia poi latte, latticini, ogni tanto non è vegano. Lui lo dice che non è vegano, lui non è vegano, totalmente vegano. Red Ronnie alla Zanzara pochi giorni fa, sentite che accuse incredibili. La Martani esiste solo perché parla di queste cose. Io faccio altre cose. Vabbè, questo non c'è dubbio. Tanto sono costretto a parlare di vegetarianesimo perché o di veganesimo perché sono vegano. Io ho sempre detto anche che non sono un integralista islamico. Ma la Martani, diciamo che lei esiste, cioè oggi come oggi occupa uno spazio nei media solo perché o mostra le tette per dire questa roba o fa un post e poi dopo torna indietro allucinante sulla matriciana o fa un'altra manifestazione dove parli e poi dopo mi ha detto una sua amica che quando era in Sardegna faceva andare il suo cane sempre in acqua e questo cane gli sono arrossati tutti gli occhi e alla fine c'entra tratti ma non animale. Ma voi vi rendete conto su che cosa si attaccano? Tu sei vegano, tu mangi la pasta, tu mangi questo, tu mangi quest'altro. Mamma mia, ragazzi. Va bene, Alessio Barletta, vai Alessio. Ciao, buonasera. Dimmi, dimmi. No, volevo dire che tra l'altro mia moglie, che è veterinario, trova assurda questa cosa dei pidocchi che non si possano ammazzare dalla testa e tutte queste cose. Ragazzi, c'è gente fissata sul fatto che i pidocchi in testa, essendo nuovo, ma in realtà non si possono ammazzare. No, cioè, però c'è una certa coerenza. Anni, domani torno a casa con i pidocchi, che faccio? Col però, pistero, scusami, li metto in fila uno a uno. No, certo, però Alessio, se uno è vegano e animalista fino in fondo, considera i pidocchi esattamente come il maiale, considera i pidocchi esattamente come una mucca, eccetera. Dunque c'è una certa coerenza, è una follia, ma è una coerente follia. Cioè, se tu sei vegano e pensi che tutti gli animali abbiano la stessa dignità, cioè, mia figlia come un pidocchio, questo è il punto fondamentale. Fondamentalmente la pensano così, e allora tu il pidocchio non lo puoi ammazzare, perché giustamente, dice Red Ronnie dal suo punto di vista, i pidocchi, anche i pidocchi hanno un'anima, per cui è follia. D'accordo. È follia. D'accordo, è follia pura, lo stato pure. Ma a me lo dici, con me sfondi una porta aperta. Di mangiare di tutto, noi siamo onnivori da sempre, poi tutti questi studi, queste nuove ricerche che poi fanno, abbiamo trovato una ricerca fatta dallo studio di United States, bla bla bla, la carne fa male, il latte fa male, le uova fanno male. Vabbè, ma si possono trovare studi da una parte e dall'altra? Ma sti cazzi, ma è da sempre che vive l'uomo, è da sempre che mangia l'uomo, se avessero veramente veramente veramente fatto Vabbè, che vuoi dire? Molto male. Volevo dire che un sacco di cose, che sono d'accordo con Oliviero Toscani per quanto riguarda la consapevolezza inconscia della ragazza che purtroppo è passata dall'altra parte. Lei avrebbe dovuto sapere che non c'è, cioè, che cosa avrebbe dovuto sapere? Non ho capito. Che se tu ti fai fare un video prima o poi questo video salta fuori. Ma non è vero, è una cazzata questa. Dai, non è vero, è una minchiata. Prima o poi salta fuori cosa? Ma non è vero, possibile. Non è così. Allora, nel 99,99% delle volte quando uno fa il video, innanzitutto tu lo fai perché te lo vuoi rivedere da solo? No. Ma anche perché lo vuoi mostrare a qualche amico? Dai, tu te lo conservi perché comunque c'è quel desiderio recondito di farlo vedere a qualcuno, giusto? A qualcuno, mica a tutto il mondo, mica tutta la rete. No, su questo e allora? Sono d'accordo, sono dei coglioni quelli che l'hanno... Ma non ho capito qual è la responsabilità, di questa ragazza. Mi spieghi? No, lei non ha nessuna responsabilità. E allora? Lei non è tutto sommato una, tra virgolette, né carnefice né vittima in questa storia, perché è una ragazza comune di questi giorni che ha fatto un video e ha trasmesso, poi se n'è andata sotto perché i ragazzi di oggi non fanno bene. Vabbè, ragazzi, però ditemi, non andate fino in fondo a quello che pensate. Cioè, tu pensi che chi fa un video, lo dà a un amico, è come se lo mettesse sul web. Dunque, però non si può fare un'idea oggettiva che tutti quelli che fanno i video sono dei cacconi o tutti quelli che lo guardano sono dei cacconi. Va bene, Alessio, ho capito. Max da Milano, vai, Max. Salve, salve Cruciani. Niente, volevo dire solo velocemente che quando una cosa la sa uno e la sa soltanto uno e la sa, per esempio, la sanno in pochi, se la sanno due la sanno in troppi. Quindi questa ragazza, quando ha fatto il video, praticamente doveva mettere in conto che anche se era una persona di fiducia, innamorato, o comunque passandolo a un amico, sarebbe comunque il rischio che questo video sarebbe finito sul web è elevatissimo. Quindi comunque a me dispiace, perché comunque è una povera... No, ragazzi, io trovo da giorni che combatto contro questa cosa qua, perché io ripeto, se uno fa un video lo dà a due o tre persone su WhatsApp, scusa, non significa che può finire sul web a disposizione di tutti. Mandami un tuo video, allora, non a me, mandalo a qualcuno un tuo video, mentre magari, non so, anche da solo, autoerotismo, sì. E poi vediamo se non finisce sul web, perché è così. Se è finisce così sul web, non è vero, dopo due secondi, a parte che non è così, perché nessuno mette sul web delle cose private di persone a disposizione di tutti, non succede, cioè, è successo in questo caso, ma non succede di solito. Se uno lo fa, questa cosa viene bloccata dopo tre secondi, cioè questo è il punto fondamentale. Gian Claudio, New York, vai. Sì, scusami che avevo il vivo voce, perdonami. Vai, dimmi. Eccomi. Dimmi. Senti, dimmi. No, mi ha fatto molto ridere questa cosa che hai detto su Trump, la puttana di qualche giorno fa. Cioè, la cosa su Trump che ho detto, spero che vinca Trump e sono disposto a barattare la vittoria di Trump con un anno di bocciatura dei miei figli a scuola, sì. Dici. Vabbè. Sì, mi sembra che hai detto anche che eri disposto a prendere nel culo, non so. No, ma non ho detto questo, quella è un'altra cosa. No, no, ma io volevo solo dirti che sono molto d'accordo con te, che anch'io baratterei delle cose se potessi. E che sono, tra l'altro, mi ha fatto piacere sentire questa cosa perché io vivo circondato da democratici. E che cosa baratteresti? Non ho capito. Ma è indifferente, il culo no. Però, insomma, cioè, diciamo, per la vittoria di Trump cosa sei disposto a fare? Purché vinca Trump? Che ne so, boh, un anno di astinenza, non lo so, dimmelo sì, tu. Sì, ma guarda, sì, anche sì. Perché guarda, io sono talmente convinto che non vincerà, che sì, potrebbe... Attenzione però, attenzione Gian Claudio, ho visto dei sondaggi oggi, ho visto dei sondaggi ragazzi, anche in alcuni stati stiamo rimontando, anche in alcuni stati stiamo rimontando, attenzione all'uomo col parrucchino, attenzione. Sì. Ciao, ragione, ciao amico però... mio, ciao, ciao, ciao. Tipi da zanzara. Ho sentito le interviste fatte ad alcune signorine, perché preferisco chiamarle signorine. A posto farle in puttane, questo dai, modo. Puttane, perché non mi piace. Prostitute, puttane, no, non battone, mi piace. Bagasce. Non mi piace. Assolutamente no, escort, non mi piace. Escort, dai, su, escort. Dai, ragazzi, escort, su, non sono escort, puttane. Allora, ma così capiscono tutti, no, signorine? Rosalinda da Pisa. Quando una donna dice che ama il latte in bocca dell'uomo. Ah, quella signorina che diceva che amava il latte in bocca dell'uomo. Ma se uno ama il latte in bocca dell'uomo, tu ami il latte in bocca dell'uomo, Rosalinda? Aspetta, aspetta, fermini, che siamo arrivati a un punto fondamentale. Alla fine siamo arrivati al punto. Assolutamente. Tu ami il latte in bocca dell'uomo o no? No, assolutamente. Ma questo qua è il latte in bocca. Il latte in bocca, sai, quando uno prende la bottiglia di latte e mette il latte in bocca, Parenzo, che cosa vuoi che sia? Il latte in bocca dell'uomo. Ma l'hai mai praticata questa cosa qua? La fellazio con l'ingoglio, l'hai praticata o no? Assolutamente no. Ma perché, mamma mia? Ma si pare che sto parlando di cose incredibili. Non mai farlo. Scusa, Parenzo, aspetta un attimo, Rosalinda, fermi. Mamma mia. Aspetta. Da anni. Però, Rosalinda, fermi, fermi un attimo. Ma anche questa che chiama, no, però, cioè, scusa, ma cosa c'hai in testa? Davide, io però ti voglio dire una cosa. Sembrava una persona normale, poi il telefono alle 20:44... per interrogarsi su una roba così, ma che è? Ma che roba è? Ma cosa è? Porn? Però scusami Davide, ma ti posso dire una cosa? Ma no, no, di ste porcherie? Io. Signora vorrei mia, dai. Semplicemente capire. Sì. Ecco, semplicemente capire come si prova piacere a fare nel... Ma signora, ma chiami? No, no, no. Aspetta, ma fammi sentire. New porn, chiami. Ecco, ma che roba è? Che fare, tu dici come si prova piacere, con l'ingoglio, questo. Al latte, con latte. Concedere piacere a chi non ti conosce, ad un... Vabbè, quello fa parte di un mestiere, signora mia, amica mia, questa è un'altra discorso. Quelle per mestiere, per mestiere fanno i cosiddetti pompini. Lei sarà d'accordo, non sarà d'accordo? Ha mai praticato l'argomento? Ha mai fatto un pompino a qualcuno? Rosalì, l'hai fatto un pompino a qualcuno o no? Ma probabilmente... Oh, ma però non a sconosciuti. Ma tu non fai la prostituta. Non fai la prostituta. Fai un'altra cosa. Quelle di mestiere fanno le prostitute. Dunque fanno pompini a sconosciuti. Di norma, Parezzo, non sto dicendo delle cose incredibili. Sto descrivendo la realtà. Sto descrivendo la realtà, che è questa. Io non sono assolutamente una perbenista. Una perbenista no, ma dice che ti fa schifo il latte. Amica mia, ti fa schifo il latte? Allora è un altro discorso questo qua. Allora, più perbenismo di così che tu dici mi fa schifo il latte. Ho capito. Capisco quelli degli sconosciuti, ma almeno della persona con cui stai insieme non ti dovrebbe fare schifo, o no? Ma dovremmo stare insieme da parecchio tempo, dovremmo conoscerci, Cioè, dopo quanto tempo pratichi la fellazio con ingoglio? Scusa, dopo un anno, due anni di... Probabilmente dopo un anno. Dopo un anno, probabilmente mamma mia, ragazzi, dopo un anno. Mamma, poveracci, tuoi fidanzati. Poveracci, mamma. E dopo la mitica Rosalinda da Pisa, solo dopo un anno di convivenza faccio un pompino con l'ingoglio a un mio fidanzato, un mio uomo, Gianfranco da Ravenna. Gianfranco, vai. Sì, dimmi. Ciao, buonasera. Vai, veloce. Ma, vai. Dicevo sul fatto dei tatuaggi, io ho uno studio di tattoo a Ravenna, quindi dicevo, siccome in prevalenza sono i Che Guevara che vanno, e ce ne sono tanti, quindi a questo punto, per par condicio, o vengono licenziati anche quelli, oppure forse licenziati da chi? Magari non vanno in televisione questi qua. sì, non vanno in televisione, però non è che viene licenziato solo perché c'è il tatuaggio di Che Guevara o del Duce, nessuno licenzia nessuno, se c'hai, anche se hai un tatuaggio di Hitler non ti licenziano. Il problema di Di Canio è diverso, il problema di Di Canio è che è andato in televisione con le maniche corte, per me non ha fatto nulla di strano, ma è diverso da uno che è stato una svista, però insomma è un pensiero suo personale, ha una sua opinione, del libro che ce l'ha, no, perché c'è gente ancora, scusa, tu c'hai uno studio di tatu, quali sono i tatuaggi che vanno di più? Tu che tatuaggi hai, per esempio? Ma io ho delle figure, dei personaggi che ho amato, anche Lucio Dalla, cioè, ho cose che gli vadano. Il tatuaggio più assurdo che hai fatto, qual è stato il tatuaggio più incredibile, più strano? Beh, madonna, farlo venire in mente così. Ma che ne so, il posto più strano invece dove l'hai fatto sul corpo umano? Beh, sul corpo umano, sul pisello, nelle zone intime, sul pisello. Nelle zone intime, sì, sul pisello. Hai fatto un tatuaggio sul pisello? Beh, diciamo, sì, intorno, non proprio sopra, ma... E sopra no, mai, sopra. No, lì buchiamo, lì facciamo i piercing, lì buchiamo. Ah, piercing sull'uccello, mamma mia, che impressione. Questo però è un buon tema, è un buon tema. Chi si fa tatuare qualcosa sul pisello? Mamma mia, che impressione, ragazzi. Ciao, io non c'ho niente addosso. La volete sapere una cosa? Andate a quel paese. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh. Radio 24. La passione si sente.